Y el avance 10 es la maringa. Maringa, c'è una cometa, pina che sinita, tira che sonita, a che ne china, battezza, battechina, ma che ne caccia candi, che tu sa che tina. Maringa, meglio che una, e che ne china, ma se che ne cotanga, e che ne macina, che se china, batte che se cotu, che se che da che se co... Maringa, io che ne china, e che tu sa, e che mi tenga, e che mi tua, che c'è coda, che se che da che te coda, che se che da che te cosa che le... Maringa, e che ciuna, e che intenda, e che tosa, e che muta, ma come, ma insomma, è la maringa! Desde la canción de las maringas, de Chuna Pica de Machinas. 3, buena quilla, 1, 2, 1, 2, 3, 4.